Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Nove minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia con voi, come sempre Sebastiano Barisoni. I temi di questa giornata economico-finanziaria, partiremo anche da alcune dichiarazioni del Presidente Confindustria Squinzi sul governo, sull'attività di governo, già ve le hanno anticipate i nostri GR, per andare poi ad alcuni sprechi, come al solito diventa quasi un tema quotidiano del nostro programma Sprechi della Pubblica Amministrazione, e poi però la vicenda Ilva, perché commissariamento d'azienda, secondo quanto prevede la bozza, per una durata massima di 36 mesi, secondo il testo del decreto che ha approdato al Consiglio dei Ministri, l'incarico dovrebbe essere affidato a Enrico Bondi, e poi in un secondo momento il Premier Letta potrà nominare un altro commissario che avrà tutti i poteri e le funzioni degli organi di amministrazione. Questo per quello che riguarda l'IVA, ma ce ne occuperemo tra brevissimo. Ancora, per quello che ha a che fare con i temi di questa puntata, la vicenda Camfin-Pirelli, ossia raggiunto l'accordo per il divorzio tra Marco Tronchetti Provera e il gruppo Malacalza nella società GPI. La famiglia genovese uscirebbe così di scena nel capitale poi di Tronchetti Provera, e favorirebbe l'ingresso del fondo Clessidra, di Intesa San Paolo e di Unicredit, che lanceranno un'offerta pubblica di acquisto sulla Camfin per delistare, cioè togliere dalla borsa la società. Il titolo Camfin si è mosso, ma non in maniera, poi ne parleremo durante la borsa, non in maniera sorprendente. Pirelli invece, per quello che riguarda l'andamento in borsa, continua a essere leggermente negativa, dello 0,50%. Camfin è l'azionista di controllo del gruppo Pirelli, a sua volta fa capo al gruppo Partecipazioni Industriali, che è la finanziaria controllata da Marco Tronchetti Provera, e che ne ha un 40%. Un altro 30% di Camfin era posseduto dalla famiglia genovese Malacalza, adesso appunto esce dal capitale. Nella seconda ora del programma invece ci occuperemo, da un lato, delle risorse che servono, perché qui il dibattito politico è molto sull'IVA, l'IMU, il rimborso della rata IMU. In realtà una stima presente oggi su Sole 24 Ore individua in 60 miliardi di euro la cifra che servirà complessivamente per far uscire, per dare un impulso all'economia italiana. E a questo proposito devo rispondere già a un ascoltatore che ha scritto al 349-238-6666 dicendo: lei vuole spinge per stampare moneta. No, non ho mai detto questo, ho detto semplicemente che nell'area euro mancano politiche per la crescita. Stampare moneta è quello che fanno gli Stati Uniti e il Giappone. Si può pensare a altre formule, a me personalmente piacciono di più, per esempio contabilizzare il deficit solo quando è un deficit che io chiamo negativo, non se è un deficit che viene fatto per far ripartire l'economia, defiscalizzare per esempio le neoassunzioni o ridurre il cuneo fiscale, e si può puntare anche a opere infrastrutturali di carattere europeo che vengano certificate dall'Europa, a obbligazioni di carattere europeo. Insomma, non è che stampare moneta sia l'unica soluzione, né sia la soluzione per tutti i mali. No, sto leggendo alcuni SMS, adesso risponderò sul Bilderberg che si riunisce. Non me ne frega nulla, nel senso che c'è molto complottismo dietro sto Bilderberg. Io vorrei capire che soluzioni offre. Non credo, non ho mai creduto al complotto pluto giudaico, massonico, ai grandi gruppi, ai grandi vecchi dietro l'economia, anche perché con quello che abbiamo visto dal 2008 in poi, se ci fosse stato un gruppo in grado di gestire e di manipolare le sorti della finanza, andrebbe, diciamo, ricoverato nella neuro, perché con quello che abbiamo visto, cioè, tutto abbiamo visto tranne che una gestione così ordinata della crisi finanziaria. È scoppiato tutto in mano, il cerino è rimasto anche a molti operatori finanziari, per cui Ma detto questo, la borsa più 0,40% Milano, Parigi più 0,1%, Francoforte invariata, Londra più 0,44%, l'America è invariata anch'essa. Tra i titoli in negativo, Prismian meno 2,60%, Fiat meno 2%, GTEC meno 1,60%, Saipem meno 0,70%. Bene invece Popolare di Milano più 4,70%, ST Microelectronics più 4,60%, Fondiere Assai più 3%, Azimut più 2,80%, Ansaldo più 2,30%, come Monte dei Paschi e UbiBanca, A2A più 1,70%, Mediolanum più 1,5%, come la Banca Popolare dell'Emilia Romagna. Chiudiamo con Intesa San Paolo e Generali che guadagnano l'1,2%. 349-238-6666 per i vostri SMS e poi la pagina di Focus Economia su Facebook. Altre notizie di questa giornata, dicevamo, partiamo dalla... un po' di pazienza chi vuole già sapere di alcuni momenti. Partiamo dall'estero, come sempre, il petrolio è in calo a New York a $93,13 al barile. E poi c'è un rapporto interessante della FAO che stima nel rapporto SOFA 2013 i costi sociali ed economici della malnutrizione sono alti, ossia di chi mangia troppo, per essere proprio espliciti. L'obesità costa 3.500 miliardi di dollari l'anno, o il 5% del PIL mondiale, ossia $500 a persona. Restiamo però sull'estero. D'agosto vi sarà un vero e proprio boom di dazi sui pannelli solari cinesi. Tema molto delicato questo, perché i produttori di pannelli solari europei lamentavano una concorrenza sleale da parte della Cina. Lo ha annunciato oggi il commissario europeo al commercio Karel de Gucht. La Commissione europea infatti ha deciso di imporre dazi provvisori sui pannelli solari cinesi che partiranno dall'11,8% da domani fino al 6 agosto, e poi dal 6 agosto aumenteranno del 47,6%. Una buona notizia arriva dalla Spagna, dove scende il numero dei disoccupati di quasi 100.000 unità. Sono sempre 4.890.000. La Spagna è il paese dell'area euro che ha il maggior tasso di disoccupazione. Però è il terzo mese consecutivo che scende il numero dei disoccupati spagnoli. Faccio notare che resta al 26,5%, per dare un raffronto in Italia, dove pure siamo a record storico, siamo al 12% di disoccupazione. La Spagna ce l'ha più che doppia. Spostiamoci in Italia, perché appunto l'invito molto forte, devo dire, del presidente Confindustria Squinzi, che dice: abbiamo dato fiducia al governo, speriamo di aver fatto bene, anche se tutti i giorni vediamo che si perde tempo in polemiche inutili. Abbiamo dato fiducia a questo esecutivo e speriamo di aver ben riposto le nostre attese, anche se vedo che non si perde occasione per trovare ogni giorno futili motivi di scontro, inutili e che non fanno che generare negli italiani nuovi motivi di disaffezione dalla politica. Si è detto che il Paese e le sue imprese sono fermi da quasi un quarto di secolo. È vero, ma solo in parte. Stiamo vivendo una lunga planata, lenta, e il combinato di una serie di fenomeni congiunturali è il segno di debolezze più profonde che dobbiamo correggere tutti insieme. Nel frattempo, via libera del Senato al disegno di legge sui debiti della pubblica amministrazione. 247 sì, 7 astenuti. A favore ha votato anche il Movimento 5 Stelle. Il testo torna alla Camera, che lo deve convertire in legge entro il 7 giugno. Non c'è moltissimo tempo a essere buoni. Numerose modifiche al testo, dalla possibilità che nel 2014 venga pagato l'intero stock di debiti alle imprese attraverso anticipazioni del sistema bancario con una garanzia dello Stato. Io ricordo che il governo Monti aveva stabilito in 40 miliardi, 20 più 20, i rimborsi dei debiti che la pubblica amministrazione vanta nei confronti delle imprese. In realtà il totale raggiunge i 100 miliardi di euro, però erano, diciamo, una prima tranche. Nelle modifiche intercorse si dà la possibilità di pagare tutti i debiti a patto che le banche anticipino con la garanzia dietro dello Stato. Il problema è che in molti casi le banche non vogliono anticipare perché i debiti sono delle ASL, ne abbiamo raccontato, ci sono ASL, mi dispiace dirlo, soprattutto al sud, ma non solo, di cui le banche non si fidano e quindi non vogliono anticipare. Vedremo se con una legge ad hoc cambierà anche l'atteggiamento. Altre modifiche intercorse riguardano l'esonero per i comuni dal pagamento dell'IMU sugli immobili di loro proprietà, tagli per 400 milioni di euro ai fondi per le imprese per coprire lo stop all'IMU sugli immobili di proprietà dei comuni. La vicenda all'Italia, sospesa la trattativa sulla solidarietà, ossia per evitare i licenziamenti si andrebbe a un accordo di solidarietà, che poi vuol dire si lavora un po' meno tutti per tenere tutti al lavoro. Detto questo, faccio notare che sul fronte occupazione arrivano altre brutte notizie, perché Indesit Company ha annunciato 1425 esuberi dopo l'incontro con i sindacati. Sono 25 dirigenti, 150 impiegati di staff e gli altri lavoratori nelle fabbriche, di cui 480 a Fabriano, 230 a Comunanza e 540 a Caserta. E la crisi, come immaginabile, colpisce anche l'imprenditoria straniera, o quella fatta, diciamo, da cittadini non nati italiani, che fino adesso aveva retto meglio. La CNA, Confederazione dell'Artigianato e delle Piccole e Medie Imprese, nel suo rapporto sulla imprenditoria etnica rivela come nel 2012 le ditte individuali con titolari stranieri siano diminuite di quasi il 7%, quindi oltre 16.000 società in meno, come ha spiegato il responsabile del centro studi della CNA, Antonio Murzi, al microfono della nostra Anna Marino. Il 2012 anche per le imprese degli immigrati è stato un anno difficile, ciò non di meno complessivamente, diciamo, il numero di imprese gestite dagli immigrati è aumentato di circa 65.000 unità e al momento conta 477.519 imprese. Questo stando, diciamo, a quella che è la definizione di Unioncamera di impresa etnica, ossia le ditte individuali più le società di capitali e di persone con un numero prevalente di soci di cittadinanza estera. Se invece andiamo a guardare le imprese più piccole, le ditte individuali, che sono quelle a cui si rivolge la CNA, osserviamo che dopo 5 anni di crescita ininterrotta, ad un ritmo di 20.000 imprese in più ogni anno, per la prima volta nello scorso anno c'è stata una battuta di arresto. Quali sono i segnali per il futuro? Le imprese più piccole stanno pagando il prezzo più alto alla crisi. D'altra parte, dice, sicuramente c'è stato un aumento delle società di capitali. La crisi comunque ha prodotto un irrobustimento almeno di una parte di queste imprese e comunque il dato rilevante è che, se anche in misura minore rispetto al passato, l'impiegato nel suo complesso è aumentato. Per quanto riguarda i settori, c'è una fortissima concentrazione degli immigrati imprenditori in alcune attività produttive. Il 70% opera prevalentemente nelle attività commerciali e nelle costruzioni. Questi chiaramente sono stati anche i settori più colpiti dalla crisi dello scorso anno. La presenza degli stranieri è sempre più ampia. Guardando soltanto alle imprese più piccole, ai ditti individuali, è interessante osservare che tra il 2007 e il 2012 l'incidenza delle imprese di immigrati è passata da circa 5 punti percentuali a 7 punti percentuali. E sempre dalla CNA, attraverso i dati Excelsior, arriva anche la fotografia dei lavori introvabili. Allora, prima di leggere questa notizia, come sempre una premessa. Lo spiegava bene anche il sociologo De Masi ai nostri microfoni 2 settimane fa. Esiste un tasso fisiologico di non incrocio tra una richiesta di un tipo di lavoro e la presenza e l'offerta di questo tipo di lavoro. Non siamo una società così liquida per cui se manca un parrucchiere a Trento, una parrucchiera a Rieti si trasferisce a Trento. Per cui quando leggiamo questi dati aggregati, teniamo sempre presente che una parte di non incrocio tra domanda di lavoro e offerta di lavoro è fisiologica. Perché lo dico? Perché i dati possono anche fare impressione. Nel 2012 le imprese artigiane avevano programmato 58.000 assunzioni, di queste 12.000, cioè una su 5, sono risultate di difficile reperimento, con un tempo medio di ricerca di 170 giorni, cioè quasi 6 mesi. Quali sono i lavori più introvabili? Tecnici, esperti in elettronica, designer industriali, idraulici, meccanici, muratori e parrucchieri. Nel 9% dei casi la difficoltà è dovuta al ridotto numero dei candidati, ma anche in un altro 12% dei casi, cioè non dico la metà ma quasi, alla scarsa preparazione di chi cerca lavoro, di chi offre questo lavoro. Rispetto alla media, i profili più difficili da trovare sono infatti tecnici elettronici, per 1 su 2 di difficile riperimento, disegnatori industriali, il 40% di difficile riperimento, idraulici e posatori di tubazioni idrauliche, il 40% non si riesce a trovare, attrezzisti di macchine e utensili, 40%, meccanici artigianali, 44%, muratori in cemento armato, 48% di difficile riperimento, fabbri, 45%. Ma in assoluto la figura più desiderata dalle imprese artigiane, e no, vabbè, non sta per farmi una battuta, è l'idraulico, che è una figura desiderata anche nell'immaginario collettivo, non solo dalle imprese artigiane, ma insomma è l'idraulico. Sul totale quasi la metà delle figure professionali introvabili appartiene appunto al profilo dell'idraulico. È interessante che nel frattempo la CGIA di Mestre ci fa sapere che nei primi 6 mesi del 2013 ci sono state 50.000 assunzioni in meno rispetto ai primi 6 mesi del 2012, 330.000 assunzioni, appunto 50.000 in meno. La vicenda La Perla, alla fine SMS Finance, la holding di Silvio Scaglia, qualcuno di voi lo ricorda, il creatore fondatore di Fast Web, e, dicevo, è che ha avuto anche una vicenda giudiziaria importante, perché poi archiviata nel 2007, una presunta frode fiscale nel 2004, archiviata nel 2007, poi invece è indagato per il reato di associazione delinque finalizzata all'evasione fiscale nell'inchiesta Fastweb Telecom Italia Sparkle, in quanto amministratore delegato di Fastweb, periodo di esercizio 2005-2006, tant'è che il 23 febbraio 2010 Scaglia va agli arresti custodia cautelare su richiesta della procura distrettuale antimafia, è rientrato e poi lo ha trasferito, lo ricordate, nel carcere di Rebibbia nel 2010 a Regina Coeli, e poi dal 2010 agli arresti domiciliari dopo 80 giorni di detenzione. Il processo però il 24 febbraio 2011 si è tenuto dopo quasi un anno di domiciliari per Scaglia. Hanno accolto l'istanza di scarcerazione i giudici della prima sezione penale del Tribunale di Roma. Dicevo, ha vinto Scaglia, che dice non siamo un fondo, io sono un imprenditore, dopo l'asta per La Perla, che era il gruppo di famoso marchio storico bolognese della lingerie d'alta gamma che cercava un compratore. L'altro concorrente, che era il proprietario di Calzedonia, Sandro Veronesi, ha detto: mi dispiace, molto duro il suo commento, mi dispiace per i dipendenti di La Perla, sono finiti dalla padella degli americani alla brace di Scaglia, povera Perla, mi dispiace per i dipendenti, che devo dire sono fatti vivi in tanti per chiedere di sostenerli. E sempre Veronese ha detto: abbiamo fatto quello che abbiamo potuto, tirato parecchio sul prezzo, ci saranno grati i creditori delle banche che prenderanno molti più soldi, siamo arrivati a 1 milione, più di 1 milione era troppo. Adesso parliamo dell'ILVA, prima però due notizie che poi sono un'anticipazione, perché nella seconda ora parleremo anche dei costi del Parlamento, Camera e Senato. Due notizie che riguardano, anzi una notizia soprattutto, non ho tempo per fare il resto, come i comuni e gli enti locali utilizzano il patrimonio immobiliare, nel doppio senso che non sanno valorizzare quello che hanno e pagano tantissimo di affitti. 349-238-6666 per gli sms e la pagina di Focus Economia su Facebook. Abbassare, non sarebbe più. sposa in bianco, il maschio forte, i ministri puliti, i buffoni di corte, ladri di polli, super pensioni, drag e più, ladri di stato e stupratori, il grasso ventre dei commentatori, diete politicizzate, evasori legalizzati, drag e più, auto blu, sangue blu, cieli blu, amore blu, rock and blues. Allora, sapete quanto spendono in un anno lo Stato, gli enti pubblici, le regioni e le amministrazioni locali per affittare a dei privati gli uffici dove mettere i dipendenti? 12 miliardi, è una cifra enorme, nel senso che 12 miliardi è una manovra finanziaria, io non dico che siano tutti non necessari, ma 12 miliardi, voglio dire, l'IMU ne vale 4, l'IVA ne vale 4, cioè con 12 miliardi, se per un anno non dovessimo, diciamo, dare questi uffici, abbiamo fatto la manovra su IMU, IVA e cassa integrazione in deroga e forse anche il rimborso dell'IMU precedente. Voi direte, beh, ci sono tanti dipendenti. Ok, però prendiamo il Comune di Roma e ringrazio, così li cito oggi, Stella e Rizzo, dopo gli insulti che ha dato ieri il tesoriere del PDL, l'abbiamo fatto anche ascoltare. Stella e Rizzo, perché? Prendiamo il Comune di Roma. Quanto spende il Comune di Roma per affittare immobili dai privati? E questo senza considerare le varie municipalizzate, le varie ACEA e controllate. Spende in un anno 107 milioni di euro. Che mi sembra un po' tantino, perché poi ha anche i suoi edifici il Comune di Roma. Sono 40 euro ad abitante, però se noi prendiamo i dipendenti, che sono i dipendenti del Comune di Roma, li dividiamo per quanto spendono, viene fuori sostanzialmente che con 25.000 dipendenti ogni anno il Comune di Roma spende per ogni dipendente 4.000 euro l'anno di affitto. Anche qui mi sembra un po' tanto, considerando che alcuni di questi hanno già i loro immobili di proprietà del Comune. 4.000 euro l'anno di affitto. Oh, no. E poi la cosa sbalorditiva è che il patrimonio cittadino è nell'ordine di 30.000 unità immobiliari, fra appartamenti, uffici, edifici, locali commerciali. La città di Roma non ha un'anagrafe pubblica del proprio patrimonio immobiliare, cioè non sa che cosa ha in mano, intanto affitta ai privati, ma non sa quale sia il patrimonio immobiliare e non ha neanche un'anagrafe chiara di tutti gli affitti che sta pagando. Questo è veramente incredibile. Il patrimonio immobiliare del Comune di Roma è gestito da tre soggetti diversi, un dipartimento comunale, i vari municipi e la società privata Romeo. È 20 anni che se ne discute. Ci sono centinaia di appartamenti e negozi di proprietà del Comune di Roma affittati a pochi euro. Pensate che c'è una piccola abitazione a Piazza Navone, a Navona, che è affittata a 79 euro al mese. Io vorrei sapere dov'è. Ci trasferiamo alla redazione della 24 subito a Piazza Navona, 80 euro al mese. E un bar in Piazza Santa Maria Trastevere che paga 52 euro, solo per fare alcuni esempi, di affitto al mese. È normale invece che il Comune spenda 106 milioni per reperire altri immobili. La cosa incredibile è che poi tutti questi edifici sparsi per la città portano a utilizzare ancora quelli che una volta venivano definiti, attenzione che il nostro tecnico si risveglia, i camminatori. Ne abbiamo parlato ai tempi del Comune di Palermo. I camminatori sono quelli che prendono un faldone, camminano, quindi devono essere dotati di gambe buone, e vanno a portare i faldoni da un'altra parte. Sapete quanti camminatori quanto spende Roma, il Comune di Roma, per far camminare i camminatori? Anche perché quando gli uffici sono distanti non è che tutti sono dei maratonetti, usano le auto di servizio. Spende 17 milioni di euro solo per far marciare ogni anno 226 auto di servizio, di cui 109 di rappresentanza, e dentro ci sono anche i 9 milioni di euro necessari a pagare gli autisti. E tutto questo anche per un centinaio di camminatori che non possono certo usare la posta certificata. Io mi chiedo se nel 2012 abbiamo ancora bisogno dei camminatori. Esiste la posta certificata, sei un ufficio del comune che deve dialogare con un altro ufficio del comune, non è che devi dialogare con la Repubblica Russa. Allora c'è, cioè, una posta certificata interna, una mail interna. No, i camminatori, 100 camminatori. Meteo, pubblicità, poi partiamo con l'ILVA, 349-238-6666 per i vostri sms e la pagina di Focus Economia su Facebook. Dopodiché, attenzione che alle 18.15 ci sarà un corollario di questa rubrica, perché parleremo di come non si stiano tagliando i costi della Camera e del Senato, un miliardino e mezzo l'anno che buttano via. Meteo. Focus Economia. ...17.39 minuti, no, sorrido perché mi è arrivato un messaggio che non capisco se è polemico oppure è polemico nei confronti degli sprechi. Dice: a cosa serve la sua trasmissione? Punto domanda. La domanda è scatologica, filosofica, non lo so, sul senso della vita. Mi aiuti lei a trovare una risposta? Io spero di informare. Spero. A farsi venire un'idea, spero. A pensare con la propria testa, spero, e a raccontare la vicenda dell'IVA. Di questo ne sono certo, perché siamo in collegamento invece con Andrea Viali, che sta seguendo il Consiglio dei Ministri a Roma, quindi il nostro Andrea Viali, e invece il collega del Sole 24 Ore Domenico Palmiotti, che si trova come sempre a Taranto. Allora Andrea, buonasera innanzitutto. Buonasera. Andrea, ecco, il Consiglio dei Ministri a che punto è? Perché praticamente è iniziato, che stavamo andando in diretta, arriva conferma della bozza, cioè Enrico Bondi, commissario straordinario, almeno nella prima fase, e poi in un secondo momento Enrico Letta potrebbe nominare un altro commissario? Guarda, sì, la situazione è un po' complessa, nel senso che questa doveva essere una riunione lampo, ma almeno così ci aveva detto stamattina, parlando alla Camera, il ministro dello sviluppo Zanonato. Però da quanto abbiamo capito ci sono state alcune modifiche del testo, della bozza di cui parlavi, del testo entrato al Consiglio dei Ministri. Quello che sappiamo è che la riunione si è conclusa, è durata oltre un'ora e mezza, quindi più dei 10 minuti di cui aveva parlato Zanonato, e adesso aspettiamo, dovrebbero scendere in sala stampa il ministro dell'Ambiente Orlando, lo stesso Zanonato e il sottosegretario Patroni Griffi, e da loro naturalmente cercheremo di avere conferme sui contenuti del provvedimento, di cui appunto sono state diffuse delle bozze. Però evidentemente è un testo che è stato in qualche modo emendato, ci si sta ancora lavorando. Comunque, diciamo, ecco, quello che appare certo è che l'azienda sarà commissariata, il periodo dovrebbe essere un massimo di 36 mesi. Il commissario straordinario non è un nome noto, l'hai detto, almeno in una prima fase dovrebbe essere Enrico Bondi, è un nome noto. Sì, sì, va bene. Sì, cioè, non è un nome nuovo, scusami, hai ragione, sì, è un nome piuttosto noto. Anche perché ricopriva la carica di fatto di amministratore delegato dell'ILVA, per cui insomma. Esatto, lui è, diciamo, fino al prossimo consiglio d'amministrazione, sì, amministratore delegato dimissionario. Comunque Bondi, ecco, si potrà avvalere anche di due subcommissari, mentre Orlando, il ministro dell'Ambiente, dovrà poi nominare un comitato di 5 esperti che dovrà predisporre in un paio di mesi il piano di tutte quelle misure, di quelle attività di tutela dell'ambiente, della salute dei lavoratori e anche della popolazione che vive attorno allo stabilimento di Taranto, lo stabilimento siderurgico di Taranto, che lo sappiamo è finito sotto inchiesta per disastro ambientale. L'obiettivo, diciamo, la linea guida del provvedimento di questo nuovo decreto del governo è quello di fare in modo che da un lato il piano di risanamento ambientale venga messo in pratica, cosa che finora non è stata fatta e a spese dell'ILVA, però mantenendo allo stesso tempo la produzione, perché lo ha detto in modo molto chiaro stamattina Zanonato: chiudere l'ILVA di Taranto per la siderurgia italiana vuol dire perdere, certo, circa 8 miliardi all'anno. Ecco, insomma, queste, diciamo, al momento sono le informazioni di cui disponiamo, però ecco, la bozza che è entrata al Consiglio dei Ministri sicuramente è stata cambiata, ci si sta ancora lavorando, quindi aspettiamo. Allora interrompici pure Andrea, se dovesse arrivare durante la diretta di Focus Economia qualche novità, a partire anche dalla semplice conferma di Enrico Bondi. Citavi tu il ministro Zanonato, che appunto questa mattina ha ricordato alla Camera l'impatto negativo che avrebbe sull'economia del paese, 8 miliardi ragazzi sono mezzo punto di PIL, la chiusura dell'ILVA, e dall'altro però aveva anche promesso che il decreto sarebbe arrivato alle 15, abbiamo capito che così non è stato. Sentiamo questo passaggio però di Zanonato. Il costo di un'eventuale chiusura dell'impianto avrebbe conseguenze negative, gravi, sul piano economico e comunque determinerebbe il consolidamento di una situazione che secondo i magistrati di Taranto è da considerarsi di disastro ambientale. L'impatto economico negativo è stato valutato attorno a oltre 8 miliardi di euro. E da Roma a Taranto, Domenico Palmiotti, buonasera. Buonasera Sebastiano, buonasera agli ascoltatori. In attesa di sapere se verrà appunto confermato Enrico Bondi, perlomeno all'inizio come commissario straordinario, possiamo già dire due cose però, che la linea del governo era apparsa abbastanza chiara fin dall'inizio, è stata confermata, no dare in mano l'ILVA a chi in questo momento non ha rispettato l'autorizzazione integrata ambientale, cioè l'accusa ai proprietari d'ILVA, diciamo. E però allo stesso tempo, come spiegava Zanonato, attenzione perché se blocchiamo tutto, blocchiamo anche l'opera di risanamento, quindi dare anche le risorse e gli strumenti per risanamento chiaramente ambientale. A questo punto il nuovo commissario, che se ho ben capito dovrebbe avere 36 mesi di tempo, non di più, che cosa dovrà fare? Ma il commissario dovrà in prima battuta fondamentalmente attuare l'AIA. 36 mesi sono appunto il tempo che l'autorizzazione integrata ambientale aveva concesso all'ILVA perché mettesse a posto gli impianti, li bonificasse, li risanasse e abbattesse le emissioni nocive che poi hanno costituito l'inchiesta della magistratura per disastro ambientale. Quindi diciamo l'arco temporale dell'AIA viene trasferito come nelle responsabilità e nell'azione appunto del commissario, che appunto dovrebbe essere Bondi. Una nomina quella di Bondi che in fabbrica ha raccolto così già dei primi pareri positivi, c'è soltanto sino adesso il giudizio negativo di Vendola, perché Vendola voleva sì il commissariamento dell'ILVA, cosa che appunto c'è stata, ma voleva anche una scelta di rottura netta, cioè una netta separazione con i Riva. Siccome Bondi si era insediato all'inizio di aprile ed era stato, diciamo, quando l'azienda era ancora nelle mani dei Riva, Vendola in questo vedeva una certa continuità. È una continuità. Però c'era un altro fronte, c'era chi diceva sì, ok, ma serve un commissario che conosca già bene l'ILVA, certo, perché sennò arriva uno, ci mette 2 o 3 mesi a capire come funziona. E non è diciamo neanche... che comunque Bondi all'ILVA stava soltanto da un mese, non era, voglio dire, Ferrante, che dell'azienda stava già da luglio dell'anno scorso. In ogni caso sembrava sin dall'inizio una scelta, non dico obbligata, ma quasi, perché Bondi riesce a mettere insieme le competenze di manager industriale, uomo che conosce le questioni della finanza e persona anche abile nel tenere il rapporto con le banche, che saranno una componente fondamentale di questo sforzo di risanamento che andrà fatto sull'ILVA. Il decreto dalla bozza che è entrata in Consiglio dei Ministri poi aveva altri 2 elementi, il primo è quello che sterilizza di fatto i poteri dell'Assemblea, perché il decreto nella bozza appunto entrata in Consiglio dei Ministri dice che nel caso di impresa costituita in forma societaria i poteri dell'Assemblea sono sospesi, e io ricordo che domani a Milano è indetta l'Assemblea dei soci di ILVA che dovrà provvedere alla nomina del nuovo CDA dopo le dimissioni che ci sono state qualche giorno fa, e a questa assemblea debutterà l'amministratore del sequestro Mario Tagarelli, perché lui adesso che detiene l'83% delle azioni di ILVA che erano in possesso di Riva Fine, della capogruppo. E poi l'altro punto del decreto, ripeto, stando sempre alla bozza che è entrata in Consiglio dei Ministri, è quella che dispone che il giudice svincoli le somme sequestrate. Sì. Come è noto, il giudice aveva disposto un sequestro da 8 miliardi di euro a valere sui danni ambientali dell'ILVA, ovviamente poi la finanza ha trovato molto molto meno sino adesso rispetto agli 8 miliardi, soltanto 1 miliardo di euro, e comunque sia tutte le somme sequestrate dalla magistratura dovranno andare al commissario perché appunto metta in atto ciò che l'AIA prevede in termini di risanamento degli impianti. Grazie Domenico Palmiotti, preciso e puntuale come sempre. Il traffico, poi la borsa e poi nella seconda ora gli altri temi di questa puntata. 349-238-6666 per i vostri sms e la pagina di Focus Economia su Facebook. Focus Economia. 17:50 minuti, di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni per commentare adesso la borsa, che ha chiuso con un mezzo punto percentuale di rialzo, quasi lo 0,45%, Parigi più debole più 0,1% come Francoforte, l'America invariata, Londra più 0,50%. Tra i titoli, la Popolare di Milano più 4,70%, ST Microelectronics più 4,5%, Fondiaria più 3,40%, Azimut più 3%, Ubibanca più 2,5% come il Monte dei Paschi, Ansaldo STS più 2,1% come la Popolare Emilia Romagna, A2A più 1,70% come Mediolanum, l'1,33% lo guadagna Intesa San Paolo e anche Generali. Fronte opposto invece Prismian meno 2,40%, G-Tech meno 2%, Fiat meno 1,70%, Saipem meno 1%, Banco Popolare meno 0,80%. Chiudiamo, perché oggi è importante, con Telecom Italia meno 0,60%, ma soprattutto Pirelli che riduce il calo dopo l'uscita di Malacalza da Camfin, meno 0,34%. Eleonora Micheli, Radio Coris, Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera. Lasciamo stare per un secondo Camfin Pirelli, che ne parliamo dopo. Allora, lo spread oggi bene, influenza buono, scusatemi, influenza in maniera positiva le banche. ST Microelectronics però è uno dei migliori titoli assieme alla Pop Milano. Sì, esatto, infatti ST si è messa in evidenza sin dalle prime battute di questa mattina e ha vantato la performance migliore tra le società a maggiore capitalizzazione. Questo perché l'amministratore delegato Carlo Bozzotti ha fornito indicazioni positive sul futuro, in particolare ha indicato che gli ordini del gruppo sono previsti in rialzo tra il 5 e il 10% quest'anno e quindi è un'indicazione molto buona. Peraltro il manager ha invece minimizzato sui costi dell'uscita da parte di ST dalla joint venture con Ericsson, joint venture che non è andata affatto bene. E comunque su queste indicazioni i titoli sono partiti molto bene, hanno chiuso con questo più 4,5% attestandosi a 7,5 euro. Bene le banche, a parte alcune eccezioni che hanno frenato soprattutto sul finale, come Unicredit meno 0,28%. Le migliori sono state, come hai detto tu, la BPM più 4,6%. Ancora si scommette magari su qualche novità sulla Popolare di Milano, ma è tutto da vedere. Allora, ripeto, escludendo Pirelli per un secondo, Telecom da un lato, ma farei anche Fiat, che oggi è chiuso debole, meno 1,70%. Sì, meno 1,70%, d'altra parte nelle ultime sedute i titoli di Fiat avevano registrato un progresso dietro l'altro, salendo oltre i 6 euro per azione, più che altro sulla scommessa che a breve il lingotto conquisti il 100% di Chrysler, proceda un'integrazione e chissà la quotazione a Wall Street. Comunque su questa speculazione i titoli hanno registrato proprio nelle ultime sedute un'ottima performance, così i dati pubblicati quest'oggi sulle vendite in Germania sono stati un po', diciamo, la scusa per prendere beneficio. In particolare è stato reso noto che il lingotto in Germania è andato peggio del mercato, se il mercato ha registrato una flessione del 9,9% a maggio, le Fiat hanno registrato un calo delle matricolazioni dell'11,4%, ma ripeto, è stato più che altro una scusa. Per quanto riguarda Telecom, come mi hai chiesto tu, meno 0,6%, anche in questo caso sale l'attesa, c'è grande nervosismo, i titoli infatti hanno, diciamo, più volte cambiato direzione, erano arrivati sulla parità, poi hanno chiuso in calo. Domani c'è un altro consiglio di amministrazione e si dovrebbe analizzare soprattutto il dossier relativo a Tre Italia per un'eventuale integrazione, ma secondo indiscrezioni pare che sarà un ennesimo consiglio, diciamo, di analisi, non verrà presa nessuna decisione importante. Comunque aspettiamo domani. Ultimo titolo, la Sogefi, perché è il miglior titolo oggi tra quelli in assoluto, scusatemi, più 11,40%. Sì, Sogefi oggi si è messa in evidenza, ha vantato la miglior performance del listino, diciamo a riaccendere i riflettori sono stati degli analisti che non solo hanno apprezzato l'operato del neo amministratore Guglielmo Fiocchi, ma soprattutto hanno iniziato a scommettere anche sul fatto che il nuovo manager nei prossimi mesi, probabilmente appunto i mesi estivi, presenterà un nuovo piano industriale. E quindi su questa scorta la borsa, si sa, guarda sempre avanti, ha fatto salire le azioni. Grazie, grazie Donora Micheli. Radio Corriere Sole 24 Ore. Adesso c'è il nostro GR. Quanto ho? Niente, 20 secondi. Allora, dopo il GR parleremo del divorzio tra Marco Tronchetti Provera e Imala Calza, che riguarda comunque l'assetto del gruppo Pirelli, visto che la Camfin è quella che controlla Pirelli. E poi soprattutto parleremo di un argomento leggero leggero per bloccare lo stomaco prima di cena. Altro che tagli, la Camera e il Senato, lo riporto oggi il Sole 24 Ore, Camera e Senato costano 1,5 miliardi di euro l'anno, quanto becca un consigliere neoassunto? Subito 3.000 euro netti al mese. Il GR. Focus Economia. Alle 18 e 7 minuti riprende Focus Economia con voi Sebastiano Barisoni. Come promesso, prima di parlare delle spese del nostro Parlamento e di quanto servirebbe per rilanciare l'economia, vorrei concludere la pagina di borsa con la notizia forse più importante oggi, non tanto come variazioni percentuali ma per l'assetto societario di un gruppo importante come è il gruppo Pirelli. Il titolo ha perso, per inciso, Pirelli lo 0,34%, mentre Camfin, che è la finanziaria di controllo del gruppo Pirelli, ha chiuso con un leggero rialzo dello 0,12%. Ieri sospesi due titoli in attesa di un comunicato, oggi riammessi, anche se poi il comunicato è arrivato alle 10 di mattina, quindi alcuni obiettano che potevano essere sospesi anche oggi, visto che il comunicato poi è arrivato a borsa già aperta. Detto questo, la Camfin, dicevo, controlla il gruppo Pirelli e ne ha il 26%, e a sua volta era perché stiamo aspettando appunto il comunicato definitivo, era partecipata per il 40%, 42% da GPI, gruppo partecipazioni industriali, e un altro 30%, che vuol dire Marco Tronchetti Provera. L'altro 30% della Camfin è posseduto dalla famiglia genovese Malacalza, che è anche il 30% di GPI, cioè era l'altro socio forte di Tronchetti Provera. Da un anno avanti uno scontro con strascichi giudiziari, accuse reciproche, divergenze sulla gestione finanziaria del gruppo e in particolare sul debito da 400 milioni di euro del gruppo. Vediamo di capire la struttura dell'operazione che scioglierebbe di fatto l'attuale azionariato di Camfin, con Antonella Olivieri del Sole 24 Ore. Antonella, buonasera innanzitutto. Buonasera. Dunque, in attesa del comunicato ufficiale, però sembra abbastanza delineata rispetto alla nota di questa mattina il fatto che Tronchetti Provera e Malacalza divorziano. E vabbè. Che cioè, cosa succede a questo punto della Camfin e chi controllerà il gruppo Pirelli? Diciamo che l'attesa è che venga ritirata dal listino la Camfin attraverso un'OPA. È una ipotesi che ormai circola parecchio sul mercato, anche perché sono mesi che si sta studiando questa operazione. Non è mai partita proprio perché era una pregiudiziale la separazione tra i due soci, che non andavano più evidentemente d'accordo. A questo punto, trovata la modalità di separazione tra le sorti di Tronchetti e di Malacalza, può procedere il piano, che credo sia anche cambiato diverse volte nelle formulazioni tecniche, quindi dobbiamo aspettare per capire quale sarà la versione definitiva, ma senz'altro un passaggio fondamentale è l'eliminazione della scatola, chiamiamola così, Camfin. Quello che si sa è che dovrebbe promuovere l'OPA una compagine dove si ritroverebbe Marco Tronchetti Provera con le sue società, i suoi alleati storici, cioè Moratti e Acutis, le due banche principali italiane Intesa San Paolo e Unicredito, e il fondo di private equity Clessidra. Quindi, per far capire a tutti, diciamo, usciti Malacalza, il posto, tra virgolette, anche se tecnicamente non sarà proprio così, dei Malacalza verrebbe preso dal fondo Clessidra, quindi Sposito, da un lato, e poi anche le banche che tu citavi, Intesa San Paolo e Unicredito, più i Moratti. Questo sarà il nuovo azionariato, diciamo, da quello che abbiamo capito, di controllo del gruppo Pirelli? Senz'altro sì, azionariato non proprio di controllo, di riferimento, perché di fatto questo azionariato avrà quel 26% che oggi ha Camfin in Pirelli. Quindi manterrà la quota, diciamo, in Pirelli che aveva Camfin. Esatto. Due note ancora. Primo, per far capire a tutti perché hanno, adesso non possiamo ricostruire una vicenda lunga un anno, ma i motivi del contender, io citavo cosa fare del debito da 400 milioni di euro, lì c'era una richiesta di Pirelli di un aumento di Tronchetti di un aumento di capitale, ma anche divergenze di carattere industriale con Maracalza. Ma diciamo, in realtà erano tutte argomenti di schermaglia. L'oggetto vero del contender era il controllo di Pirelli, da questo punto di vista diciamo che l'ha spuntata Marco Tronchetti Provera, perché di fatto con l'appoggio delle due grandi banche italiane in realtà andrà avanti col progetto che lui aveva delineato, mentre i Malacalza usciranno di scena e dovranno accontentarsi di una quota di minoranza nella Pirelli senza avere tra l'altro prerogative di governance, quindi nemmeno un posto in consiglio assicurato. Ultima nota invece riguarda la Consob, perché insomma, se non voglio tirare in ballo Vegas, ma è normale, lo chiedo in maniera un po' retorica, ma è normale che due titoli vengano sospesi ieri in attesa di un comunicato, poi questa mattina il comunicato non arriva, la borsa riapre e poi il comunicato arriva alle 10. Delle due l'una, o potevi non sospenderli ieri o dovevi sospenderli oggi, così la capisco io, però vorrei sentire la tua opinione. Ma diciamo, ieri c'era un'aspettativa, che avevamo anche in redazione, che si potesse arrivare a un comunicato in serata, probabilmente era la stessa aspettativa che aveva la Consob. Il problema è che quando si mettono insieme i legali di diverse parti in causa a discutere di tutti i cavilli, non si può mai avere certezza dei tempi. Più che altro è da capire che cosa sia cambiato da ieri sera a questa mattina, quando è stato deciso di riammetterli, dato che comunque un accordo non era stato ancora raggiunto. Certo. Nei dettagli, forse è che si sapeva che l'accordo nella sostanza c'era e i dettagli sarebbero arrivati, quindi forse la Consob ha ritenuto sufficiente questo. Vedremo se arriveranno spiegazioni anche dalla Consob. Intanto grazie a Antonello Olivieri del Sole 24 Ore. Le sfide del governo, ultimo tema di questo programma. Chiaramente non ci occuperemo di tutte le sfide del governo, ma prenderemo spunto soprattutto da un calcolo, a mio avviso molto completo, che fa oggi il Sole 24 Ore, ma anche insomma dalla punzecchiatura, pungolatura, chiamatela come volete, per partire a ragionare insomma sulle risorse che deve trovare il governo. Oggi mentre il disegno di legge sui debiti della pubblica amministrazione adesso tornerà alla Camera dopo il via libera del Senato, in via libera a cui hanno partecipato anche i grillini, quindi il Movimento 5 Stelle, e infatti gli astenuti sono stati solo 7 e 247 i sì, e deve essere approvato comunque il disegno per diventare legge entro il 7 giugno. Prevede altre le modifiche intercorse, lo ripeto, prevedono per esempio che possa essere pagato l'intero stock di debiti che lo Stato vanta nei confronti delle imprese, sono quasi 100 miliardi di euro, attraverso anticipazioni del sistema bancario con garanzie dello Stato. Poi prevede anche l'esonero per i comuni dal pagamento dell'IMU sugli immobili di loro proprietà, tagli per 400 milioni di euro ai fondi per le imprese per coprire a sua volta lo stop all'IMU sugli immobili di proprietà dei comuni. Sentiamo Squinzi, la sua pungolatura sul governo. Abbiamo dato fiducia a questo esecutivo e speriamo di aver ben riposto le nostre attese, anche se vedo che non si perde occasione per trovare ogni giorno futili motivi di scontro, inutili e che non fanno che generare negli italiani nuovi motivi di disaffezione dalla politica. Si è detto che il Paese e le sue imprese sono fermi da quasi un quarto di secolo. È vero, ma solo in parte. Stiamo vivendo una lunga planata, lenta, e il combinato di una serie di fenomeni congiunturali è il segno di debolezze più profonde che dobbiamo correggere tutti insieme. E questo si inserisce in un articolo di oggi su Sole 24 Ore, dal titolo molto facile, insomma, per far uscire l'Italia dalla crisi serviranno 60 miliardi di euro, altro che 4 miliardi dell'IMU sulla prima casa e anche i 4 miliardi che non ho capito bene come dovrebbero essere trovati per evitare l'IVA, l'aumento dell'IVA dal primo luglio. L'autore è Fabio Pavesi, con cui ne parleremo dopo il traffico, anche perché in contemporanea sempre Fabio Pavesi ha rifatto i calcoli di quanto ci costa la Camera e il Senato, al di là delle dichiarazioni sui finanziamenti ai partiti. Ben venga la riduzione graduale del finanziamento ai partiti, però insomma 1,5 miliardi di euro l'anno. Ne parliamo dopo il traffico. 349-238-6666 per i vostri sms e poi la pagina di Focus Economia su Facebook. Focus Economia. Allora, Fabio Pavesi, buonasera innanzitutto. Buonasera a te e agli ascoltatori. Come si arriva alla cifra di 60 miliardi per far uscire l'Italia dalla crisi? Perché il calcolo è abbastanza semplice, però vorrei che lo facessi tu. Sì, è un po' ragionieristico, ma d'altra parte diciamo tutti che la crisi è drammatica, la più grave dal dopoguerra, e di fronte a crisi drammatica ci vogliono misure eccezionali, perché i partiti litigano sull'IMU 4 miliardi, ma 4 miliardi sono un'inezia. Allora, se pensiamo che tagliare il costo del lavoro, no? Tutti dicono, ma tagliate le tasse sul cuneo fiscale. La Voce.info ha fatto uno studio molto semplice. Un taglio dei contributi del 2,5 costerebbe allo Stato 16,7 miliardi, ma avrebbe un impatto poco significativo. Per avere un impatto sull'economia... Perché, voglio dire, 2,5%, anche se ti resta in busta paga... Resta pochissimo in busta paga. Quindi un taglio serio dovrebbe collocarsi intorno al 5, avrebbe per lo Stato perché un Prodi costo... Perché Prodi fece 6 punti, però 4 per le imprese e 2 per i lavoratori. Quindi, diciamo, immaginiamo 5 mettiamo punti tutti 5, per i lavoratori. Mettiamo 5, quei 5... No, questi sono anche questi condivisi, hanno un costo però per lo Stato di 33 miliardi, otterrebbe però il fatto che un lavoratore di 50 anni con un reddito di 50.000 avrebbe 833 euro in più in busta paga, mentre l'impresa risparmierebbe 1.600 euro. All'anno, chiaramente. All'anno. Ovviamente sono soldi che tu restituisci all'economia reale e questi sono 33 miliardi. Poi pensiamo... Già 800 euro per un reddito da 50.000 euro lordi l'anno... che poi sì, è un 1,5%, insomma, però essendo un reddito, insomma, vado a spanne su, poi bisogna capire che detrazioni fiscali uno sì, ha, certo. Però immaginando anche che che gli restino 36.000 euro, sono 3.000 euro netti al mese, uh-huh. 800 euro in un anno potrebbero iniziare ad avere un certo effetto, sì, parlo, ripeto, di alcuni consumi magari per le vacanze. La stima è veramente minimalista, ma certo. Proprio perché è minimalista, i numeri sono molto semplici. Allora, 33 miliardi se vuoi tentare di mettere soldi in busta paga ai lavoratori e far risparmiare le imprese. Poi pensiamo anche alle altre possibilità, cioè l'ETA aveva parlato di dare un reddito minimo alle famiglie bisognose, no? Nel suo piano di governo. Allora, immaginiamo che le famiglie in difficoltà siano 3 milioni, una su 10. Se dessimo 1.000 euro al mese a queste famiglie, l'onere per lo Stato sarebbe di 36 miliardi, un contributo di soli 500 euro lo abbasserebbe di 18 miliardi. Ma stiamo su questi numeri minimi, se noi li sommiamo viene fuori una cifra appunto che veleggia intorno ai 60 miliardi, e comunque... che non è casuale però, perché attenzione, la recessione che stiamo vivendo è in parte causata dallo shock fiscale che l'ultimo governo Berlusconi e Monti hanno applicato, che è stato di 4 punti di PIL, cioè c'è stata una stretta fiscale su questo paese 2011-2012 che è valsa 60 miliardi, quindi non si tratterebbe altro che di compensare quella stretta fiscale che è servita per rientrare nel deficit, per restituire denaro all'economia reale. Quindi è molto semplice il ragionamento, forse molto semplicistico, però è ovvio che se tu ragioni su cifre come l'IMU, l'economia non ripartirà mai, perché no, non l'IMU, basta. Guarda, non l'abbiamo detto, allora, non è che se si riesce a levare l'IMU, ben venga, lo dico a tutti, chi vi parla ha un mutuo, paga l'IMU, vabbè. Però attenzione, non diventi oggetto solo di contesa politica, perché poi bisogna anche in questo programma parlare di numeri. 4 miliardi sono meglio che non averli, ma non cambiano in nulla la situazione. Non è come se si mette a consumare perché risparmia 200 euro di IMU. c'è un altro aspetto negativo, che l'IMU, quando il catasto è fatto bene, è una vera patrimoniale, e cioè va a colpire chi ha avuto la possibilità, giustamente, di comprarsi abitazioni di maggior pregio e di maggior lusso quando l'adeguamento catastale è stato fatto, e fa pagare un po' di più, quindi quella che è la ricchezza del patrimonio al di là del reddito, esatto, dichiarato, sganciata polemica, da ogni reddito. La polemica di ieri sulle dichiarazioni di autonomi professionisti, su cui oggi non torno. Allora, questa polemica sull'IMU è una polemica su 4 miliardi, poi altri 4 miliardi vale l'IVA. Sì. Anche lì c'è chi dice sarà la morte dei consumi, darà la mazzata finale, i consumi già in calo, c'è chi dice attenzione, però l'IVA si va a applicare sui redditi più alti, per chi uno più compra. Io ritengo che sia peggio il primo che il secondo, nel senso che poi l'IVA si va a applicare anche su redditi molto bassi che hanno bisogno di comprare beni sottoposti a IVA, e quindi ovviamente la fregatura è doppia, più che applicarsi a chi tanto spende e vabbè, avere una capacità redistributiva. Ma anche se sommiamo IVA con IMU siamo a 8 miliardi. Ora 8 miliardi te ne fai poco. Applicare la riduzione del cuneo fiscale, che quella è in automatico, cioè dal mese dopo in busta paga il lavoratore si ritrova con un 5% in più, o meglio, per meglio dire, costa un 2,5% in meno al datore di lavoro, quella vale 33 miliardi. Io non starei neanche sul reddito minimo, perché non so dove, immaginando però come il governo vuole fare che a fine giugno vi siano delle politiche di sgravio fiscale per le neoassunzioni, dovremmo in qualche modo sommare altri soldi, perché non è solo il cuneo fiscale, lì si tratterebbe, da quello che abbiamo capito, di non far pagare i contributi per i neoassunti per un certo periodo di anni. Queste le cifre, giusto per non farsi ingannare quando si discute, ci si lacera su IVA e IMU, siamo un po' ai bruscolini. Detto questo, e non è certo con i costi della Camera e del Senato che si risolve il problema, ma i messaggi e gli esempi servono, oltre che far risparmiare qualche lira. Tu hai fatto oggi, molto produttivo sei, hai fatto un calcolo di quanto vale la devoluzione dei risparmi molte volte annunciati di Camera e Senato. Rovinaci la cena. Ma il gesto simbolico della Boldrini e Grasso è stato ben apprezzato e sono tagliati lo stipendio del 30%, ben venga. Però se guardiamo il sito della Camera, i risparmi di costo nei primi mesi di questa legislatura sono stati solo 8 milioni e mezzo su un bilancio di 992 milioni di euro dell'anno scorso, cioè il taglio vero è stato dell'1%. 1%. Se andiamo a vedere poi la Camera... È interessante, perché se noi avessimo chiesto agli italiani un taglio delle loro spese o dei loro salari dell'1%, tutti avrebbero detto sì, ok. Direi le famiglie, sì, con i numeri che vediamo, hanno fatto tagli in questi anni di crisi che vanno tra il 15 e il 20%. Prego. Anche perché mantenere Camera e Senato costa 1,5 miliardi, che è lo 0,1 del PIL, e costa 1,5 miliardi l'anno. Noi abbiamo discusso il finanziamento ai partiti, che vale 100-150 milioni di euro l'anno, e su questo si è fatta polemica. Beh, la Camera e il Senato costano 10 volte di più la loro gestione annua. E la cosa paradossale è che costano così tanto perché se ne vanno tutti in stipendi e pensioni ai dipendenti, e stipendi e pensioni ai parlamentari e agli ex parlamentari. Il bilancio della Camera di 992 scenderà 9,40, quindi ci sarà un taglio del 5%, rimane comunque poco significativo come impatto. I dipendenti sono 1.500 alla Camera e costano solo come retribuzioni 238 milioni di euro, il che vuol dire che ogni lavoratore, dal barbiere al commesso fino a... guadagna 150.000 euro lordi l'anno, cioè 10.000 euro lordi al mese. E le retribuzioni di inizio carriera, cioè il neo assunto alla Camera, parte con stipendi netti che vanno dai 1.800 euro ai 2.900, a seconda della qualifica. Ecco, voglio dire, se li raffrontassimo con qualsiasi lavoratore dell'industria privata o pubblica, vuol dire che i dipendenti d'oro di Camera e Senato, Camera in questo caso, guadagnano 3-4 volte più di un normale lavoratore. Sì, io non capisco perché, cioè nel senso, allora... ci possono essere delle funzioni, lo dico senza nessuna demagogia, delle funzioni molto delicate, ed è giusto che vengano pagate bene. A parte il fatto che 150.000 euro lordi in media siamo sul livello di un dirigente, sì, esattamente, di un'impresa che teoricamente rischia un po' di più e ha altre responsabilità. Certo. Però il barbiere della Camera, con massimo rispetto, certo, c'ha una certa responsabilità per alcuni, diciamo, vabbè, non voglio fare la battuta, però insomma, il barbiere della Camera è un po' tanto 150.000 euro lordi, capisco l'importanza della gola e della barba dei senatori e dei deputati, un po' tantino, alcuni commessi, altre funzioni, 150.000 euro, cioè, in questa crisi, allora sappiamo tutti che non serve per risolvere i problemi dell'economia, viste le cifre che abbiamo appena raccontato, ecco perché l'ho tenuto assieme, i 60, diciamo, o 35 miliardi almeno che servirebbero per far ripartire un po' i consumi e 1,5 miliardi di costi della Camera. Però, anche se non servono, gli esempi sono fondamentali nella vita, come sa qualunque manager o qualunque imprenditore serio e onesto, è lui il primo che si taglia stipendi e che mette i suoi soldi dentro l'impresa e non li porta all'estero. Allo stesso modo, se permettete, anche vedere uno sforzo più significativo in cui c'è un taglio più brusco, non è con 150-200 milioni che risolviamo le cose, però nel un buon esempio viene dall'altro, non fa mai male, non questo fa mai male senso. E poi sono stipendi obiettivamente in media inaccettabili. Un ultimo dato, vai, giusto per dire, il Senato costava nel 2001 350 milioni di euro, è arrivato a costare nel 2011, 10 anni dopo, 540 milioni, più 50% in 10 anni. Se fosse un'impresa avrebbe già chiuso. Avrebbe già chiuso, perché il paese, la ricchezza del paese non è cresciuta del 5% all'anno negli ultimi 10 anni. Tra l'altro io vorrei capire anche se 1500 dipendenti alla Camera, 1500 dipendenti alla Camera, sì, sono, e sono anche scesi perché erano 1800, sono più di due a deputato, sono due a deputato esattamente, se siano tutti così necessari. Va bene, si fa per dire. Allora, grazie a Fabio Pavesi del Sole 24 Ore per averci raccontato i due fronti, uno più simbolico, invece uno molto molto più economico. Noi ci risentiamo domani dalle 17 in poi. Da Sebastiano Barisoni, comunque, nonostante queste notizie, l'auguro di una buona serata. Radio 24. La passione si sente.